A celebrare il 150esimo anniversario non giova al federalismo. Disoccupazione stabile all'8,7%, ad aumentare è quella giovanile che si attesta al 28,9%. Romano Prodi a Radio 24 sulle persecuzioni religiose, un gruppo di saggi prenda posizioni ben precise. Calcio con le novità in casa della Juve, KO di Quagliarella, ma arriva Luca Toni. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione a Reggio Emilia in primo piano, dove nel 1797 vide i natali il tricolore, e proprio a Reggio Emilia oggi sono iniziate le celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Parole importanti quelle pronunciate da Giorgio Napolitano, in diretta ce le riferisce Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così partono da Reggio Emilia le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano osserva la bandiera tricolore sventolare, poi inizia il suo discorso, un discorso che sembra più un appello all'Unità d'Italia e un monito alla Lega. Sentiamo il Presidente della Repubblica. A forze politiche che hanno un significativo ruolo di rappresentanza democratica sul piano nazionale e lo hanno in misura rilevante in una parte del Paese, vorrei dire che il ritrarsi o il trattenere le istituzioni dall'impegno per il 150enario, che è impegno a rafforzare le condizioni soggettive di un'efficace guida del Paese, non giova a nessuno. Non giova a rendere più persuasive, potendo invece solo indebolirle, legittime istanze di riforma federalistica e di generale rinnovamento dello Stato democratico. L'unità nazionale fu la causa a cui tanti italiani dedicarono il loro impegno e la loro vita, spiega inoltre il Presidente della Repubblica. Tutti devono rispettare il tricolore, ma ancora di più chi ha la responsabilità di rappresentanza e di governo, simbolo unitario indicato nella Costituzione. E dato che nessun gruppo politico ha mai chiesto che vengano sottoposti a revisioni i principi fondamentali della nostra Carta, dovrebbe significare che per tutti è pacifico l'obbligo di rispettarli. Prove ardue attendono l'Italia, dice Napolitano, in un delicato contesto europeo e in un arduo confronto internazionale, ma se il Paese è unito può farcela. Presenti alla celebrazione i sindaci delle tre città capitali d'Italia, Torino, Firenze e ovviamente Roma. Conforta il discorso di Napolitano, spiega Enzo Chiamparino, sindaco di Torino. Per Matteo Renzi, primo cittadino di Firenze, da condividere al 100%, mentre Gianni Alemanno, unico sindaco di centrodestra, accoglie l'appello di Napolitano. Per il primo cittadino di Roma, guai se il federalismo diventa sinonimo di separazione. E per il momento è tutto a voi studio. Grazie Elisabetta. L'altra notizia in primo piano oggi è la disoccupazione. Il tasso a novembre è stabile, ma per i giovani e le donne trovare lavoro è sempre più difficile. Il dato è stabile, nessuna variazione da ottobre a novembre. La disoccupazione resta ferma all'8,7%, questo almeno in superficie. Perché sotto, e neanche troppo in profondità, la rilevazione dell'Istat lascia poco spazio al sorriso. Per cominciare, il tasso cresce dello 0,4% rispetto al novembre del 2009. Ma le vere note dolenti arrivano alla voce giovani e donne. Il tasso di disoccupazione giovanile, una fascia che comprende ragazzi tra i 15 e i 24 anni, a novembre è salito al 28,9%, il livello più elevato da 6 anni a questa parte, ben oltre un giovane su 4, più 0,9% rispetto a ottobre e un aumento superiore ai 2 punti percentuali nel confronto con novembre 2009. La situazione è particolarmente grave a Napoli e provincia, dove secondo la Camera di Commercio la disoccupazione giovanile ha superato la soglia del 40%. Anche il capitolo donne ha vissuto momenti migliori. Per la prima volta il tasso raggiunge la doppia cifra, 10%. Le senza lavoro crescono sia rispetto a ottobre sia rispetto al novembre del 2009. La disoccupazione resta stabile anche in Europa, più 10,1%. La situazione peggiore resta quella spagnola, mentre migliorano Germania e Francia, dove la disoccupazione è in calo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito nel servizio, situazione molto difficile a Napoli, soprattutto per i giovani. Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio di Napoli, sempre al microfono di Valeria De Rosa. Un dato credo esponenziale a livello nazionale, fra fra i peggiori, se non il peggiore in assoluto. Evidentemente, diciamo, questo è il frutto di una serie di problemi congiunti che sono racchiudibili, insomma, nel fatto che da un lato, diciamo, l'economia nazionale e internazionale non cresce, affanna, ma noi scontiamo una serie di ritardi complessivi dove, diciamo, fino adesso c'è stata una forte mortalità di imprese, c'è stata una difficoltà di creare nel nostro territorio, per motivi diversi, compresi anche quelle dell'ordine pubblico e della sicurezza, un territorio che non è diventato negli ultimi anni attrattore di investimenti esterni di nessuna natura. Tra l'altro, questo dato del 40% mostra poi il fianco a quello che è il pericolo maggiore, certo, quello della criminalità. I ragazzi saranno oggetto, diciamo, più facile preda di una malavita, perché evidentemente se ci sta un ragazzo, più o meno un ragazzo su due, che è senza lavoro, finiscono con, non tutti, grazie a Dio, ma molti ad essere tentati dall'essere intruppati, diciamo, nelle fila dei clan malavitosi. E commenta i dati sulla disoccupazione il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, evidenziando la stabilità del quadro e annunciando che sono in arrivo misure proprio per i giovani. Dopo uno degli anni più difficili per la nostra ancora giovane moneta unica, è ora di voltare pagina, è ora che ciascuno degli Stati membri si prenda le proprie responsabilità. L'ho detto oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, durante un incontro in Baviera. Dalla Germania arrivano intanto dati positivi, l'export tedesco a novembre è aumentato dello 0,5% rispetto ad ottobre, su base annua l'incremento del 21,7%. Le importazioni hanno invece registrato un incremento mensile del 4,1% e annuo del 33,3%. E allora diamo uno sguardo alle borse. Buona giornata, Deborah Rosciani. Buona giornata anche a voi. Allora, le borse stanno vivendo una giornata piuttosto singolare, perché sono partite male, hanno peggiorato la loro seduta e poi adesso invece vedo già un cambio di direzione che è soprattutto evidente a Piazza Affari, che guadagna lo 0,33%, a metà mattinata perdeva oltre un punto. Francoforte più 0,21%, sono ancora leggermente negative Londra e Parigi, meno 0,29% e meno 0,17% rispettivamente. Mercato oggi che attende il dato sulla disoccupazione americana, lo conosceremo fra un'ora e mezza alle 14.30, ci sono delle attese non proprio negative, per cui è chiaro appunto che il mercato guarda soprattutto la statistica sul mercato del lavoro statunitense. Euro su dollaro a 1,2979, oggi l'euro era risalito a metà seduta, a metà mattinata, oltre la soglia di 1,30, poi è risceso di nuovo sotto questo livello, siamo sui minimi da 4 settimane a questa parte, e ricordiamo appunto che l'euro era riuscito a risalire oltre la soglia di 1,33 proprio un paio di giorni fa, un mercato che rimane ancora piuttosto volatile. Direi che per ora è tutto. Grazie Deborah. Finmeccanica, attraverso le sue controllate Ansaldo STS e Ansaldo Breda, si è aggiudicata una commessa da 700 milioni di euro per la realizzazione del sistema di trasporto tecnologico della nuova metropolitana di Copenaghen. Celebrate la scorsa notte in un clima di timore tra rafforzate misure di sicurezza, le messe per il Natale copto. Durante la sua omelia, il capo della Chiesa copta ortodossa d'Egitto, Shenouda III, ha ricordato le vittime dell'attentato della notte di Capodanno alla Chiesa di Alessandria e tutte le vittime cristiane in vari paesi. Blindata anche la messa del Natale copto a Roma, a cui ha partecipato il sindaco alemanno. E altro possibile fronte di tensione anche religiosa in Sudan, dove domenica si vota per il referendum che deve decidere sulla separazione tra il nord e il sud del paese. Il voto è un punto di arrivo importante dopo la fine della guerra civile, ma la tensione resta alta soprattutto sulla destinazione delle risorse del paese, l'acqua e il petrolio, che sono concentrate al sud. Su questi temi una esclusiva di Radio 24. Paolo Piacenza ha intervistato l'ex premier Romano Prodi, che dal 2008 è alla guida della Commissione ONU che si occupa proprio dei processi di peacekeeping in Africa. Gli ha chiesto innanzitutto un giudizio sugli episodi di violenza in Africa, dall'Egitto alla Nigeria, alla vigilia proprio del voto in Sudan. Gravissimi in se stessi, ma gravissimi ancora di più perché rappresentano un'onda di un mare in tempesta. Cioè, stiamo attenti che il problema della persecuzione delle minoranze, soprattutto cristiane, ma in genere le minoranze religiose, è un problema che tocca tantissimi paesi, va dalle Filippine alla Nigeria, all'Egitto, pensiamo ai problemi e alle tensioni che ci sono anche nelle zone del Medio Oriente, è un problema che tocca parte del mondo non solo islamico, ma anche del mondo asiatico. E quindi bisogna che su questo proprio una serie di saggi prendano posizioni ben precise perché sia garantita la libertà religiosa in tutto il mondo, nell'interesse tra l'altro stesso dell'equilibrio dei paesi in cui queste tragedie avvengono. Detto questo, il Sudan è particolarmente delicato perché ha una complessità religiosa interna al mondo islamico stesso, per cui un eventuale scoppio di tensioni oltre quella avvenuta all'interno del paese probabilmente si propagherebbe attraverso tutto l'Africa subsahariana. Ne ho parlato recentemente con il ministro etiope, che appunto poneva sul tavolo questo problema di un Sudan che ha rapporto intellettuale, politico con tutta l'area subsahariana. Ecco, c'è stata in questi giorni una forte presa di posizione del governo italiano sui temi della libertà religiosa. Lei come valuta questa presa di posizione? Posizione italiana mi sembra giustissima. Il problema è che l'Italia non guarda assolutamente all'Africa, quindi la sua posizione, per giusta che sia, è politicamente irrilevante. Cioè, perché politicamente irrilevante? Perché non, l'Africa non è nel nostro radar. Crollati gli aiuti, crollate le presenze. L'Italia è presente per l'ONG, per i missionari, per un minimo di società civile, ma politicamente in Africa, salvo un rapporto con la Libia, il resto dell'Africa viene assolutamente trascurato. Ecco, allora, a questo punto qual è la sua lettura, la sua analisi sul caso del Sudan alla vigilia del referendum di domenica? Si va purtroppo al referendum con tanti equivoci e tanti punti ancora da chiarire. C'è un referendum che deve decidere sulla divisione in due del paese, anzi sulla formazione di due paesi diversi, e ancora non sono decisi i confini, soprattutto non è deciso il destino delle risorse petrolifere che sono tutte vicine al confine, non sono decisi i problemi dell'acqua del Nilo. Siamo veramente di fronte a tutta una serie di punti interrogativi che fanno tremare. Legato alla sua attività giornalistica, al suo lavoro, poi confluito in un libro Diversi e divisi sulla difficoltà della convivenza tra islamici e cristiani, l'attentato della scorsa notte in Basilicata ai danni di un giornalista del televideo Rai, Nello Rega, lo ha intervistato Michele Albini. Sì, è un agguato, cioè se tu lo chiami agguato, perché in italiano si chiama agguato, no? Colpo di pistola, no? Mi permetto di dire, no, a televideo hanno messo colpo di pistola, no? Mi hanno affiancato e hanno sparato, no? E io mi sono salvato perché ho dato un'accelerata con la mia macchina, ma hanno nell'accelerazione della macchina il colpo ha colpito la parte posteriore della macchina, ma bastavano due centimetri. C'è visto lo spazio tra un finestrino anteriore e posteriore, no? Bastava che loro colpissero lì, era in agguato a tutti i livelli. Dov'è che stavi viaggiando? Stavo tornando a Potenza. Avevi motivi per temere che si potesse arrivare a questo? Ma sì, perché ho avuto diverse minacce. Cioè, la cosa è stata sottovalutata, perché ho un sistema di sicurezza che ovviamente è molto scarno, come puoi vedere, no? È molto scarno. Io stanotte, dopo aver fatto la denuncia, dato la mia macchina ai carabinieri, sono tornato a casa senza nessuna scorta. Ti sembra normale? E adesso? Adesso sto aspettando che il ministero, dove già in valutazione il mio caso, mi assegni la scorta. Perché l'unica cosa per vivere, io non ho bisogno della macchina, dell'autista o della benzina. Io ho bisogno di vivere tranquillamente come vive un essere normale, però questo oggi non è possibile, perché come vedi prima mi hanno mandato le lettere minatorie, i proiettili, un mese fa a Potenza, scardinando la porta, eccetera, e stanotte hanno tentato di uccidermi. Pensi, cioè, che siano sempre gli stessi autori? Sono sempre la matrice è sempre islamica, la matrice islamica, che ho scritto un libro sull'Islam. La mia paura è che ci sono anche degli emulatori. Calcio con i verdetti di ieri, il Milan è campione d'inverno, ma la prima Inter di Leonardo batte 3-1 il Napoli e fa prove tecniche di rimonta ritrovando il sorriso. Non così la Juventus, sconfitta dal Parma. Per i bianconeri anche il KO anticipato di Quagliarella. La risonanza magnetica svolta questa mattina a Torino ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore destro. Si prevede uno stop di circa 5-6 mesi. Per fortuna però la Juventus sta per concludere l'accordo per la cessione a titolo definitivo dal Genoa di Luca Toni. Conferenza stampa del ministro La Russa a Milano di ritorno dall'Afghanistan. Ne parliamo tra pochissimo. Restate con noi. 13:17, i nostri titoli. Unità d'Italia via le celebrazioni. Napolitano ritrarsi dall'impegno a celebrare il 150° anniversario non giova al federalismo. Disoccupazione stabile all'8,7%, ad aumentare quella giovanile al 28,9%. Romano Prodi a Radio 24 sulle persecuzioni religiose. Un gruppo di saggi prenda posizioni ben precise. Fenomeno mondiale, la moria d'uccelli tocca anche l'Italia. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. In primo piano, come vi abbiamo anticipato, a Milano, alla conferenza stampa del ministro La Russa di ritorno dall'Afghanistan. È ritornato ancora sul caso Miotto, ma non solo. Alla conferenza stampa per noi Giovanni Capuano. Giovanni, buona giornata. Sì, buongiorno da Milano, e con in mano la rassegna stampa di questa mattina il ministro della difesa La Russa, appena rientrato dall'Afghanistan, ha voluto precisare i contorni del suo intervento di ieri, che molti hanno interpretato come un attacco ai vertici militari per la gestione delle informazioni sulla morte del caporale Miotto il 31 dicembre. Nessuno ha mentito al ministro, è stata soltanto data una versione non completa di quanto accaduto e il rapporto finale mi è stato consegnato il 4 gennaio, 96 ore dopo la morte di Miotto. Questa è stata la ricostruzione questa mattina di Ignazio La Russa, un ritardo che il ministro ha ammesso essere eccessivo, anche se si è difeso non originato dal tentativo di nascondere la dinamica dell'incidente. Ha detto però è stata la prima e sarà l'ultima volta che questo avviene. La Russa ha voluto riconfermare la fiducia nei vertici militari, non c'è stato nessun impeto di rabbia, chiedo solo di non avere remore verso la trasparenza assoluta, ha concluso ancora La Russa, che si è detto pronto a riferire in Parlamento non appena gli verrà richiesto, e ha confermato che quanto accaduto il 31 dicembre con la morte del caporale Miotto non cambierà le modalità della presenza del contingente italiano in Afghanistan, che nelle prossime settimane aumenterà ancora di circa 200 unità. E da Milano, se non ci sono domande, è tutto. Linea allo studio. Grazie a Giovanni Capuano. Ultim'ora da Roma, ergastolo per Raniero Buscolo, ha chiesto il PM Ilaria Calò per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto il 7 agosto del 1990 in un appartamento di via Poma a Roma. Busco era all'epoca dei fatti il fidanzato di Simonetta Cesaroni, la svolta proprio poco fa. Alcune centinaia di immigrati africani sono scesi in piazza questa mattina a Rosarno, ad un anno esatto dalla rivolta che scoppiò dopo il ferimento di due extracomunitari e la reazione violenta di una parte della popolazione. Almeno in 300 hanno dato vita ad un corteo nel centro di Rosarno per chiedere diritti sul lavoro e condizioni di vita migliori. La richiesta principale avanzata è quella dei documenti per trovare lavoro. Una delegazione di manifestanti poi nel pomeriggio sarà a Reggio Calabria per un incontro con il prefetto. Un anno fa la rivolta degli immigrati a Rosarno, in Calabria. La rabbia dei braccianti neri per le strade, la caccia all'uomo da parte di alcuni abitanti del posto. Alle spalle l'ombra dell'andrangheta e lo sfruttamento. Un anno dopo, come sono cambiate le cose? Claudia Carlino, rappresentante della CGIL a Rosarno. Tutto peggio, anzi, si è messa la testa sotto la sabbia. Chi lavora, lavora sempre per pochi euro al giorno. Smantellando quelli che erano i posti, gli alloggi, anche se in condizioni igienico-sanitarie pessime, sono state smantellate lo scorso anno dopo la rivolta, quest'anno non ci sono nemmeno quegli insediamenti e questi ragazzi stranieri sono costretti a vivere in alloggi di fortuna per lo più, o vivono nelle campagne o nelle macchine. I più fortunati vivono ammassati nelle case del centro storico, piccole case magari in 15-20 persone. Insomma, secondo questa testimonianza, finita la ribalta, poco è stato fatto. Il neosindaco di Rosarno è Elisabetta Tripodi. Da un punto di vista pratico, delle promesse che erano seguite ai fatti, promesse concrete e aiuti da parte delle istituzioni, ben poco è stato fatto. C'è comunque un tavolo permanente alla prefettura dove si sta tentando di installare, con l'aiuto della regione, della protezione civile regionale, un campo attrezzato con dei container, 20 container che potrebbero arrivare fino a 120 posti letto, dotato di luce, di acqua, di servizi igienici. L'area è stata individuata, è stato fatto il sopralluogo da parte della regione e stiamo aspettando la consegna dei container. Sui rapporti a un anno dalla rivolta di Rosarno tra le persone del posto e i braccianti di colore, le opinioni sono diverse. Per il sindaco la riconciliazione c'è e l'intolleranza non si è più vista da queste parti. Claudia parla invece di diffidenza palpabile tra le parti. C'è poi il parere di Norina Ventre, da tutti conosciuta come Mamma Africa, la donna del posto che da tempo ha aperto una mensa gratuita per i migranti. No, impauriti no, perché noi li pensiamo bene, lo sanno, noi li accogliamo sempre. Certo, non si sono comportate bene, un pochino qualcuno se lo sentite, ha rotto l'auto, hanno rotto le vetrine, ma sai com'è, sono periodi brutti per tutti. Paola Nania, Radio 24, Sole 24 Ore. Torniamo all'estero, negli Stati Uniti, per parlare di giustizia, di nuove esecuzioni capitali, ma anche del doppio orrore in tribunale nell'Ohio. In questo primo scorcio del 2011, gli Stati Uniti di Barack Obama cadono in contraddizione nel peggiore dei modi sui temi della giustizia e dei diritti umani. Mentre si battono perché la condanna di Sakineh in Iran non venga applicata, in Oklahoma uccidono un afroamericano di 39 anni. L'esecuzione ieri nel penitenziario di Stato con un'iniezione di pentobarbital, un anestetico usato dai veterinari per praticare l'eutanasia sugli animali. Come se non bastasse, nell'Ohio portano davanti al giudice un bambino di 10 anni incatenato. La foto, che ha fatto il giro del mondo, riprende due gambine in una tuta troppo larga da cui spunta una catenella che lega le caviglie. Il piccolo è comparso davanti al tribunale di Millersburg dopo aver ucciso la madre. Viveva con lei e due fratelli più grandi in un garage adattato d'appartamento. Il fucile con cui ha sparato gli era stato regalato dal nonno. La madre gli permetteva di tenere altre tre carabine nella sua cameretta. Negli Stati Uniti possedere un'arma è un diritto costituzionale. Alla fine però il colpevole pericoloso è lui, trattenuto in catena a 10 anni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Budapest nel pomeriggio l'incontro tra la Commissione europea e il governo ungherese, da una settimana alla guida dell'Unione. Al centro della discussione la contestata legge bavaglio sulla stampa. L'insolito braccio di ferro tra Europa e Ungheria si dovrebbe arricchire oggi di un nuovo capitolo con la tradizionale visita della Commissione europea al governo che assume la presidenza dell'Unione. In effetti siamo partiti col piede sbagliato, ha ammesso ieri il premier Viktor Orban, ha già ribattezzato il Putin d'Ungheria per la legge che ha di fatto messo l'intera stampa del paese sotto il controllo di un'autorità governativa. Un passo azzardato, sbagliato nella tempistica, come ha ammesso lo stesso Orban, conscio di aver rovinato l'evento storico della prima presidenza ungherese dell'Unione europea. Tuttavia il premier conservatore non si è perso d'animo, attaccando Francia e Germania in un antipasto di quello che potrebbe essere il ritornello del semestre, Budapest contro l'asse Berlino-Parigi. Un insulto troppo frettoloso e non necessario il modo in cui i governi francese e tedesco hanno reagito alla legge, ha detto Orban, che ha affermato di non ricordare un attacco ungherese alla legge francese sui media, un riferimento alla possibilità per il presidente transalpino di nominare il capo della televisione pubblica. L'Europa dovrà decidere, ha salomonicamente concluso Orban, lasciando aperta la porta a future modifiche della legge, come già ipotizzato dal ministro degli esteri Martoni. Oggi Orban ne parlerà con Giuseppe Barroso, presidente della Commissione europea, che ha già anticipato la sua posizione al riguardo. La libertà di stampa è un principio sacro, ha detto Barroso. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuova parentesi calcistica, abbiamo parlato della Juventus nella prima parte di questo GR, torniamo a parlare dei bianconeri. 3 giornate di squalifica per il centrocampista della Juve, Felipe Melo, lo ha deciso il giudice sportivo che ha così sanzionato il calcio al volto con cui il giocatore brasiliano ha reagito ad una entrata di un avversario nel corso della sfida contro il Parma giocata ieri all'Olimpico di Torino. Migliaia di uccelli cadono dal cielo in tutto il mondo, il fenomeno arriva anche in Italia. A dare manforte ai teorici dell'apocalisse prevista dai Maya per la fine dell'anno prossimo ci si sono messi anche gli uccelli del malaugurio, migliaia di volatili che piovono dal cielo in varie parti del mondo senza vita e apparentemente senza una spiegazione. Prima i 5.000 merli caduti in una cittadina dell'Arkansas, poi nuovi casi in Kentucky e in Svezia, ora la moria è arrivata anche in Italia. Nelle campagne di Faenza sono state trovate 400 tortore morte. La scienza però stronca le leggende. Per Mauro De Logu, ricercatore della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna, i i fenomeni non hanno alcun rapporto fra loro. I primi esiti che si hanno avuti dalle autopsie degli animali negli Stati Uniti sono da lesioni attribuite a lesioni da trauma e quindi messe in relazione ad esempio con l'uso dei botti di Capodanno, situazioni simili per cui gli stormi degli animali che stanno dormendo sugli alberi vengono spaventati, prendono il volo di notte senza controllo e urtano contro linee elettriche, edifici e interi stormi possono venire a morte. In questo modo succede da noi praticamente quasi tutto l'anno in concomitanza con episodi di questo tipo. E le tortore di Faenza? Purtroppo c'è un mal costume tutto italiano che è quello di avvelenare gli animali in città perché sporcano e ho paura che questa volta, aspettiamo gli esami tossicologici prima di dirlo, ma se il caso insomma riconduca a problemi di questo tipo. A spaventarci insomma non dovrebbe essere la fine del mondo, ma che fine faranno il pianeta e le sue specie per colpa dell'uomo? Chissà cosa ne avrebbe pensato Charles Fort, lo studioso di fenomeni paranormali che tra l'Ottocento e il Novecento analizzò centinaia di casi di animali piovuti dal cielo, per poi concludere il destino di tutte le spiegazioni e chiudere una porta per spalancarne un'altra. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un fax per annunciare la vittoria, grazie, voglio ringraziarvi per avermi dato la felicità, sono siciliano, padre di 3 figli, sono venuto a Genova per cercare lavoro ma l'ho trovato a Roma e ora vivo qui, adesso però ho un futuro e vivo più sereno. Si è manifestato così questa mattina il fortunato titolare del Tagliando serie M126172 della Lotteria Italia, il Tagliando che si è aggiudicato il primo premio, quello da 5 milioni di euro. Pare che l'uomo poi abbia anche telefonato ai proprietari della ricevitoria. Il cinema, per chiudere, innanzitutto con il record storico per Che bella giornata, il film di Gennaro Nunziante con la protagonista Checco Zalone. Nei primi 2 giorni di programmazione ha incassato 6 milioni 800 mila euro, dati Cinetel che, sommati agli incassi extra Cinetel dell'intero mercato, hanno superato i 7 milioni. Si tratta, pensate, del record di sempre per il box office italiano. E intanto sarà Robert De Niro il presidente di giuria al prossimo Festival di Cannes. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Indimenticabile Robert De Niro in Taxi Driver, film di Martin Scorsese che vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 76. Stessa sorte toccò ad un altro film con De Niro, The Mission, 10 anni dopo. Ora invece l'attore americano sarà sulla crosetta in veste di presidente della giuria della 64esima edizione. L'organizzazione ha fatto sapere di aver scelto l'attore americano sia come riconoscimento alla sua carriera cinematografica, sia per rendere omaggio al Tribeca Film Festival, di cui De Niro è cofondatore e che nel 2011 festeggerà i 10 anni di vita. Nell'accettare l'incarico, De Niro ha detto di essere onorato per essere stato scelto a guidare la giuria di uno dei più antichi e migliori festival al mondo. Anche se negli anni 80 sono stato presidente della giuria per 2 volte, ha aggiunto, so che per me e per i miei amici giurati non sarà un compito facile. Gli altri 9 membri della giuria saranno scelti nelle prossime settimane. Il festival si svolgerà dall'11 al 22 maggio. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, grazie regia a Filippo Aureggi. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.